Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non abbiamo invece bisogno di chiudere le frontiere. Siamo consapevoli del fatto che l'integrazione degli immigrati che arrivano da noi è un processo che richiede del tempo e comporta dei costi. È anche vero che ci sono delle differenze socioculturali che devono essere affrontate e che l'immigrazione, quando mal gestita, può portare a competizione con persone a basso reddito nell'accesso ai servizi sociali piuttosto che nel mercato del lavoro. Ma una classe dirigente all'altezza deve avere il coraggio di dire la verità agli italiani. Abbiamo bisogno degli immigrati per tenere in piedi il nostro sistema di protezione sociale. E lo so, molti non vogliono sentire questa dichiarazione, questa affermazione, però oggi lo ha detto il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha detto che con una simulazione che ha fatto l'INPS da qui al 2040, cioè fino a quando si vorrebbe bloccare il flusso dei migranti, sapete delle ipotesi che stanno circolando da un po' di tempo, dice chiuderli fuori costerebbe 38 miliardi alle casse dell'Italia e ridurrebbe le entrate contributive di 75 miliardi fino al 2040. Questo almeno secondo quanto dice il presidente dell'INPS Boeri. Parleremo naturalmente di immigrazione anche oggi, perché la Commissione europea ha presentato le proposte per cercare di alleviare un po' questa pressione migratoria sull'Italia, visto che soprattutto negli ultimi tempi il governo italiano si è fatto molto sentire su questo fenomeno. Ci occuperemo anche dei venti di guerra evocati sempre più costantemente da Kim Jong-un, dalla Corea del Nord, ha lanciato l'ennesimo missile. Gli Stati Uniti temono che questa volta davvero si tratti, al di là della megalomania del dittatore coreano del nord, di un missile intercontinentale che quindi può attraversare da un continente all'altro e può essere davvero un serio rischio per la pace, quindi sempre più pericoloso. 349-238-6666, intanto è sempre il numero per WhatsApp ed SMS al quale potete scrivere i vostri commenti sui fatti principali della giornata, oppure c'è per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. Quindi, prima di approfondire i vari temi, vi racconto come sempre in sintesi la giornata. L'emergenza migranti, la Commissione europea ha presentato oggi il piano d'azione per aiutare l'Italia e l'Austria in via mezzi corazzati al Brennero. Banche, via libera di Bruxelles al salvataggio di MPS, il ministro Padoan commenta, è un risultato importante per il sistema bancario. La sfida della Corea del Nord, lancio di un nuovo missile, probabilmente intercontinentale, che sarebbe atterrato in acque giapponesi. Trump avverte la Cina, se Pechino non interviene faremo da soli. La vicenda del piccolo Charlie, la mamma del bimbo inglese chiama l'ospedale Bambin Gesù che voleva accoglierlo, ma l'ospedale londinese non dà nulla osta. Consip, domiciliare a Romeo, in carcere dal marzo scorso, si aspetta il braccialetto elettronico. E a Roma tornano liberi Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca Raggi, e l'imprenditore Sergio Scarpellini, che si trovavano agli arresti domiciliari. Ilaria Alpi, la procura di Roma chiede l'archiviazione del caso perché spiega è impossibile risalire al movente e al killer per gli omicidi dell'inviata del TG3 e dell'operatore Milan Rovatin. Lavoro dipendente, per i primi 3 giorni di malattia basterà l'autocertificazione, lo propone un disegno di legge e ne parleremo. Vaccini, parere favorevole dell'Istituto Superiore di Sanità per una riduzione dell'obbligo da 12 a 10. Calcio, Donnarumma rinuncia alla maturità, vacanza a Ibiza per il calciatore dopo il contratto milionario con il Milan. E partiamo quindi dall'emergenza migranti, sulla quale oggi la Commissione europea, vi dicevo, ha presentato il piano d'azione per tendere la mano all'Italia. Nel frattempo l'Austria scatena le polemiche per i blindati posizionati al confine. 35 milioni di euro in più per aiutare l'Italia nella gestione dell'emergenza migranti, nuovo sistema di reinsediamenti, nuovi accordi di riammissione, accelerazione nei ricollocamenti, più denaro per il fondo fiduciario euroafricano, riforma del regolamento di Dublino sull'asilo. Questi alcuni dei punti del piano d'azione presentato dalla Commissione europea per alleggerire la pressione migratoria sulla penisola in vista della riunione dei ministri dell'interno giovedì a Tallinn. Il vicepresidente della Commissione Timmermans ha definito pienamente giustificata la richiesta di aiuto pervenuta dal governo italiano. Proviamo giovedì a vedere quanto possiamo fare insieme con l'Italia. Ho piena fiducia nei piani del ministro Minniti, perché lui ha ben capito come trovare delle soluzioni strutturali per questo problema. Il piano della Commissione prevede richieste anche a Roma, quali la redazione di un codice di condotta per le ONG attive nel Mediterraneo. Questo mentre un'Austria in piena campagna elettorale torna a far la voce grossa sul confine del Brennero. Vienna ha portato 4 mezzi corazzati Pandura al confine con l'Alto Adige, avviando i preparativi per il ripristino dei controlli controlli alle frontiere. 750 soldati in stato di preallerta potrebbero venire dispiegati nell'arco di 3 giorni qualora la situazione lo richiedesse. Il ministro della difesa austriaco Doskozil è esplicito: se la situazione si aggrava decideremo per controlli alla frontiera con l'Italia. Solidali lo siamo stati, ma non c'è possibile esserlo sempre. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Agli annunci di Vienna, il governo italiano risponde convocando alla Farnesina l'ambasciatore austriaco. Con l'Austria siamo al film dell'anno scorso, si parlava di muri ma poi si è visto che al Brennero non passano migranti. Non c'è giustificazione per questo atteggiamento, commenta il ministro degli esteri Alfano. Dura anche la presa di posizione del ministro dell'interno Minniti, secondo il quale quella di blindare le frontiere appare come un'iniziativa ingiustificata e senza precedenti. Se non verrà subito corretta, comporterà inevitabili ripercussioni nella cooperazione fra i due paesi nel campo della sicurezza, avverte Minniti, il quale intanto giovedì al vertice europeo di Tallinn presenterà il codice di condotta predisposto dal Viminale per le navi delle organizzazioni non governative impegnate nei soccorsi dei migranti. Le imbarcazioni delle ONG dovranno essere sempre localizzabili con i sistemi satellitari, non potranno più operare nelle acque territoriali libiche e i loro interventi dovranno essere coordinati dalla nostra guardia costiera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E si sarebbe dovuto parlare di migranti anche all'Europarlamento, oggi, dove il presidente della Commissione europea, Juncker, ha avuto anche un duro scontro col presidente Antonio Tajani. Juncker si è lamentato per i pochi parlamentari che erano presenti in aula. Il Parlamento europeo è ridicolo, très ridicolo. I parlamenti europei, lo sentite, sono ridicoli, molto ridicoli, dice Juncker in francese. Tajani gli risponde: la prego, lei può criticare il Parlamento, ma non è la Commissione che deve controllare il Parlamento, è il Parlamento che deve controllare la Commissione. Poi i due si sono fortunatamente chiariti. E come avete sentito all'inizio, il presidente dell'INPS Boeri, le porte chiuse ai migranti, ha detto, ci costerebbero molto. Oggi è stato presentato il rapporto annuale dell'Istituto. No alla chiusura delle frontiere, senza immigrati l'INPS crollerebbe, parola del presidente Tito Boeri, il quale stima una perdita secca in termini di mancati contributi di 38 miliardi di euro per i prossimi 22 anni, una manovra aggiuntiva annuale. Abbiamo bisogno degli immigrati per tenere in piedi il nostro sistema di protezione sociale e questa loro funzione è destinata a crescere nei prossimi decenni man mano che le generazioni di lavoratori autoctoni che entrano nel mercato del lavoro diventeranno più piccoli. Più immigrati dunque per compensare il calo delle nascite, la minaccia più grave alla sostenibilità del nostro sistema pensionistico e più donne affinché ci siano più contributi. Il numero uno dell'INPS sostiene poi che sia arrivato il momento per l'introduzione del salario minimo nel nostro ordinamento. Le premesse ci sono, mentre ricorda che ci sono ancora quasi 6 milioni di pensionati sotto i 1000 euro. Boeri infine rivendica una gestione a suo dire virtuosa dell'istituto e propone di cambiarne il nome in Istituto Nazionale di Protezione Sociale, dal momento che, dice, solo 150 delle 440 prestazioni erogate sono di tipo pensionistico. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso parliamo dell'allarme terrorismo lanciato dalla Francia. Lo ha detto oggi il primo ministro francese Edouard Philippe, che ha detto: ve lo dico senza giri di parole, ci saranno altri drammi, altri attacchi. Lo ha detto Philippe parlando di terrorismo nel suo primo intervento oggi davanti al Parlamento di Parigi. Torniamo in Italia con le banche, Via Libero di Bruxelles al salvataggio di Monte dei Paschi di Siena. Il ministro dell'economia Padoan ha commentato: è un risultato importante per il sistema bancario. E ora all'estero, con la sfida della Corea del Nord, il missile lanciato oggi può raggiungere qualsiasi parte del mondo. Questo secondo l'Accademia della Difesa di Pyongyang, che dice: siamo in possesso del missile balistico intercontinentale più potente in grado di raggiungere qualsiasi parte del mondo. Questo missile è Lapsong 14, ha volato in 39 minuti per 933 chilometri e avrebbe raggiunto le acque giapponesi, tanto che il premier giapponese Shinzo Abe ha detto: mostra questa cosa chiaramente come la minaccia di Pyongyang diventi sempre più pericolosa. E Donald Trump ha detto al presidente cinese Xi Jinping che gli Stati Uniti sono pronti ad agire da soli se la Cina non farà nulla. E arriviamo al caso del piccolo Charlie in Gran Bretagna. Ieri, ricordate, qui effetto notte, la presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma aveva spiegato la disponibilità dell'ospedale ad accogliere il bambino di 10 mesi gravemente malato in Gran Bretagna, a cui medici e giudici vogliono staccare le macchine che lo tengono in vita contro la volontà dei genitori, perché ritengono medici e giudici che non abbia nessuna possibilità di sopravvivenza. Vi faccio risentire una parte di quello che ieri ha detto con effetto notte la presidente dell'ospedale Bambin Gesù, Mariella Enoch. Chiaramente in questo ospedale non ci sono cure miracolose, quindi noi non illudiamo nessuno. Se i genitori decidono di tenere in vita il loro bambino, pur essendo stati informati di tutto, benissimo, il bambino sarà tenuto in vita, c'è una macchina che gli apre e chiude i polmoni sostanzialmente, però i genitori potranno essergli vicino e saranno accompagnati in questo loro dolorosissimo momento. La malattia del bambino è una malattia rarissima e gravissima, quindi le aspettative di vita non ci sono, però è il modo in cui la famiglia può decidere e accompagnare. Io credo che la famiglia, come avviene per tante famiglie che sono in questo ospedale, vada informata di tutto, anche dell'eventuale dolore che il bambino potrebbe avere, e poi però devono essere loro a poter decidere con libertà, in coscienza, con informazione corretta e sorretti anche da tanto amore, da tanta proprio compassione, ma nel senso migliore della parola, nel senso di patire con loro in questi momenti. Questo quindi ha detto ieri la presidente del Bambin Gesù, qui a effetto notte, Mariella Enoch, che oggi la mamma di Charlie, la mamma inglese, ha chiamato Mariella Enoch, le ha detto: vogliamo verificare la possibilità di una cura molto decisa, anche se avete sentito le parole di ieri di Mariella Enoch, che ha detto in realtà non ci sono speranze di sopravvivenza, vogliamo accompagnare i genitori in questo percorso doloroso. Poi oggi però anche il Vaticano ha detto: faremo di tutto per superare questi problemi legali per il trasferimento del bambino. E poco fa anche Alfano, ministro degli esteri, ha detto: domani parlo con Boris Johnson, che sarebbe il ministro degli esteri britannico. Insomma, una situazione molto complessa, delicata, che sicuramente non dovrebbe cercare di alimentare false aspettative, ma comunque insomma bisogna mettersi nei panni dei genitori. Iraq, un giovane attore modello iracheno è stato chiamato il Brad Pitt dell'Iraq, è stato trovato morto, il suo corpo barbaramente mutilato e lasciato a terra nelle strade di Baghdad dopo essere stato dichiarato scomparso da familiari e amici, lo riferisce il sito di notizie iracheno Iraq News. Karak Nushi era stato più volte minacciato di morte da non meglio precisati individui e gruppi radicali, sia sunniti che sciiti, che lo accusavano di avere atteggiamenti omosessuali e non rispettosi nei confronti dell'Islam. I suoi amici hanno detto che più volte era stato minacciato di morte. Torniamo in Italia con l'inchiesta Consip. Sono stati disposti domiciliari per Alfredo Romeo, l'imprenditore napoletano arrestato il 1 marzo con l'accusa di corruzione insieme all'ex dirigente Consip Marco Gasparri. Romeo allo stato è ancora detenuto nel carcere romano di Regina Coeli in attesa che sia disponibile il braccialetto elettronico col quale potrà essere trasferito a Napoli. C'è un grosso problema, non so se ricordate, se ne è parlato varie volte, di questi braccialetti elettronici che non si trovano, non sono reperibili, ma non ci sarà un fornitore, chi lo sa. A Roma intanto tornano liberi Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca Raggi, e l'imprenditore Sergio Scarpellini, che si trovavano agli arresti domiciliari. E arriviamo alla vicenda di Ilaria Alpi. Impossibilità di risalire al movente e agli autori degli omicidi dell'inviata del TG3, appunto Ilaria Alpi, e dell'operatore Miran Rovatin, avvenuti il 20 marzo 1994 a Mogadiscio in Somalia, e nessuna prova di presunti depistaggi. Quindi la procura di Roma ha chiesto oggi, ha chiuso così, ha chiesto l'archiviazione di questo caso. L'inchiesta risale a 23 anni fa e adesso deciderà il GIP. E poi questa tristissima, terribile storia di violenza sessuale su una bambina di 12 anni a Bari, violentata dal branco di minorenni. Ne parleremo di questo caso, che purtroppo, specie ultimamente, non è l'unico. E c'è una novità per il lavoro dipendente, anche di questo parleremo nel corso di effetto notte. Per i primi 3 giorni di malattia basterà l'autocertificazione, lo propone un disegno di legge. Ci sono novità anche sui vaccini, l'Istituto Superiore di Sanità esprime un parere sostanzialmente favorevole al testo emandato in Commissione Sanità al Senato, che porta i vaccini obbligatori da 12 a 10, lasciando un'offerta attiva e gratuita da rafforzare per 4 vaccini raccomandati. Potete trovare anche l'elenco sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per chiudere il calcio con una notizia naturalmente che ci dà il senso di quanto un giocatore molto pagato, molto famoso, molto bravo può di quante cose può godere. Gianluigi Donnarumma ha deciso di non sostenere gli esami di maturità da privatista in ragioneria per volare Ibiza con un volo privato, quindi andare direttamente in vacanza dopo il contratto da 6 milioni a stagione per 5 anni con il Milan. Il portiere ha scelto di riposare. Donnarumma avrebbe dovuto presentarsi mercoledì all'istituto paritario Leonardo da Vinci di Vigevano, hanno detto no, preferisco andarmene in vacanza. Poi un pochino di gossip, restiamo sul calcio. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è stato paparazzato con Ambra Angiolini, travolti dalla passione nell'ultimo fine settimana. E così, con un po' di leggerezza, chiudiamo questa prima parte di Effetto Notte. C'è la viabilità e poi ritorniamo con i vari temi. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS. Per esempio, Francesco dice: Boeri avrebbe fatto bene a dire prima se mai andremo in pensione. Ma secondo Boeri andremo in pensione, dai calcoli che ha fatto l'INPS, se continueranno ad arrivare anche i migranti che pagheranno i contributi anche per chi va in pensione tra gli italiani di nascita, diciamo. Lidia scrive: viva Boeri, almeno uno che parla in modo chiaro. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti zeppi zeppi di notizie, anche di ospiti con approfondimenti. Roberta Giordano sempre con voi. Questa è la vostra colonna sonora dell'informazione la sera per restare aggiornati su tutto quello che succede di più importante dall'Italia e dall'estero. Adesso cominceremo a approfondire i temi. I vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra l'altro, sulla pagina Facebook di Effetto Notte potete trovare i vaccini obbligatori che stanno diventando da 12 a 10 e quelli fortemente consigliati. E poi il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. C'è un ascoltatore che dice: il domandone, ma se, come dice il presidente dell'INPS, i migranti rendono tanto, perché nessun altro paese li vuole? Poi anche un altro ascoltatore, Francesco, dice: perché gli altri stati d'Europa non la pensano allo stesso modo? Varie domande, insomma, qui non posso rispondere, non so rispondere io in questo momento. Questi sono i calcoli che ha fatto l'INPS, il presidente del nostro istituto di previdenza. E poi Giovanna dice: temo che il sogno di avere un'Europa unita sia finito, troppe chiacchiere, nel momento del bisogno riemergono gli egoismi. Infatti ne parleremo tra pochi istanti, visto che l'Austria di nuovo minaccia di bloccare il confine tra Austria appunto e Italia. Ma prima di tutto, prima di cominciare con il primo tema, vi ricordo i fatti principali della giornata. Oggi, a proposito di immigrazione, la Commissione europea ha presentato il suo piano d'azione sui migranti, che dovrebbe aiutare l'Italia. Nel frattempo c'è uno scontro tra Italia e Austria sul Brennero, perché l'Austria vuole blindare il confine. E poi via libera di Bruxelles al salvataggio di MPS del Monte dei Paschi di Siena. La mamma di Charlie, del bambino inglese, chiede il trasferimento al bambino Gesù, ma ci sono ostacoli dall'ospedale di Londra e il Vaticano dice: faremo il possibile. Pensioni, il presidente dell'INPS, Boeri, dice: non bisogna colpire i giovani, ora ci vuole il salario minimo. E poi dice che se fermassimo il flusso dei migranti avremmo fino al 2040 parecchi miliardi in meno di contributi. Domiciliari a Romeo sull'inchiesta Consip, ma aspetta il braccialetto elettronico per uscire, come vi dicevo prima c'è una grande penuria di questi braccialetti elettronici. Intanto Marra, per quanto riguarda invece Roma, Marra, ex braccio destro della sindaca Raggi, libero con Scarpellini, dice: l'arresto mi ha distrutto. L'inchiesta su Ilaria Alpi, la procura di Roma chiede l'archiviazione perché dice non c'è nessuna prova di depistaggi e non si arriverà né alle motivazioni né al killer, purtroppo. Aggiungiamo, per quanto riguarda la Corea del Nord, Kim Jong-un lancia il primo missile a lungo raggio intercontinentale, Trump dice: reagiremo. E ne parleremo. E poi l'IS, l'Istituto Superiore di Sanità, che dice sì a ridurre l'obbligo da 12 a 10 vaccini. Potete guardare anche l'elenco sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ora invece parliamo appunto dell'emergenza immigrazione, che è un'emergenza, lo sta dicendo anche con particolar forza negli ultimi tempi il governo italiano con il ministro dell'interno Minniti, con Gentiloni che dice, ha detto nei giorni scorsi, l'Unione Europea non può continuare a voltare la faccia dall'altra parte, e anche lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella che dice, se continua così il fenomeno è ormai insostenibile. Quindi sollecitazione all'Unione Europea da parte dell'Italia in questi giorni del governo italiano. Oggi la Commissione Europea, riunita a Strasburgo, ha presentato questo piano d'azione per alleviare la pressione migratoria sull'Italia. I punti principali di questo piano sono, in sintesi, l'impegno per un centro di coordinamento in Libia, la richiesta di un codice di condotta per le organizzazioni non governative, aree di salvataggio in Tunisia e in Libia, più rimpatri dall'Italia, che però deve accelerare sulle procedure, redistribuzione dei rifugiati. E c'è inoltre la disponibilità di una squadra di reazione rapida di oltre 500 esperti in rimpatri della Guardia Costiera e della Frontiera Europa. E poi un aumento di fondi destinati alla gestione delle migrazioni, con 35 milioni di euro addizionali pronti a essere smobilizzati immediatamente. All'Italia però si chiede di applicare rapidamente la legge Minniti, creando ulteriori hotspot, cioè questi centri di prima accoglienza per la registrazione e migliorando la capacità di detenzione. Intanto però l'Austria è pronta a schierare l'esercito, a difendere i suoi confini. 4 mezzi corazzati sono già al Brennero, pronti a entrare in azione entro 3 giorni con 750 militari. Dura la reazione della Farnesina, del Ministero degli Esteri italiano, che dice questa vicenda è un'iniziativa ingiustificata e senza precedenti, ha detto Minniti. Vogliamo sentire Alfano anche cosa ha detto? Quello che sta succedendo al Brennero, e cioè assolutamente niente per quanto riguarda la emergenza. Al Brennero non passano migranti, la frontiera viene gestita con grande efficienza. L'Austria già l'anno scorso aveva minacciato la creazione del muro, e poi sono stati in un qualche modo chiamati a dire che sarebbe stato inutile perché i migranti non transitavano. Quindi veramente non c'è giustificazione a questo atteggiamento. Questo ha detto Alfano. Allora ne parliamo con Mario Bertoldi, che è cronista dell'Alto Adige, che è il quotidiano online di Bolzano. Mario, buonasera. Buonasera a voi. Tu sei stato quindi al Brennero oggi? Sì, oggi sono stato al Brennero, e posso dirvi che quella che è stato l'annuncio del ministro degli esteri austriaco è un grande bluff, nel senso che dei mezzi corazzati annunciati non c'è assolutamente traccia. E il piccolo paese di Brennero, che è proprio il confine tra Italia e Austria, non risente assolutamente della presenza di migranti che in qualche maniera dovrebbero tentare di oltrepassare il confine. La situazione è assolutamente sotto controllo, sia da parte delle forze di polizia e anche dell'esercito italiano, perché ci sono alcuni militari anche presenti a Brennero, sia da parte delle forze di polizia austriache. E dunque non si capisce bene per quale motivo il ministro degli esteri abbia fatto questo tipo di annuncio, che ha creato disappunto nella popolazione e anche e soprattutto tra i commercianti di Brennero, perché paventare un ritorno dell'attenzione come era avvenuto un paio di anni fa, e dunque c'è il timore che questo ritorno e paventare il ritorno alla tensione possa provocare danni soprattutto per gli operatori commerciali. Ma il problema, ripeto, assolutamente non c'è. Quindi Mario ha ragione Alfano, che diceva prima, rivediamo il film dell'anno scorso, tante minacce, ma poi in realtà non succede niente. Mi pare che abbia ragione Alfano. C'è chi, come sindaco di Brennero, ha ricordato proprio oggi che molto probabilmente sulla vicenda dei migranti al confine tra Italia e Austria, a Vienna si cerca di ottenere qualche voto in più in vista delle elezioni nazionali per il rinnovo del Parlamento austriaco, elezioni che si terranno in ottobre. E dunque ci sarebbe stata questa speculazione, c'è chi vuole mostrare i muscoli per dimostrare di avere la situazione sotto controllo, ma anche di essere pronto a intervenire, dicendo che in sostanza, lasciando capire che l'Italia non controlli bene la situazione, ma vi assicuro che non è assolutamente vero. Al Brennero è tutto normale e regolare, non ci sono assolutamente mezzi corazzati, ma non c'è nessun problema neppure, non c'è nessuna tensione per presenza di migranti. Mario, appunto c'era un po' questa accusa nei confronti del ministro, questo sospetto nei confronti del ministro degli esteri Kurz, austriaco, che fosse una mossa di campagna elettorale. Lui però ha visto una dichiarazione delle agenzie poco fa che dice: non sono da attribuirsi alla campagna elettorale in corso in Austria, i preparativi in corso al valico del Brennero, a mio avviso è estremamente responsabile il fatto che ci si prepari. Però tu che sei lì ci stai dicendo che per il momento non succede nulla, quindi si vede che appunto non c'è una persona accampata alla stazione ferroviaria. Cioè, dici proprio, di immigrato? Sì, di immigrato, non c'è nessuno. Quindi non c'è nessuna emergenza, oltre che non c'è nessun mezzo corazzato. Vabbè. Gli unici preoccupati, ripeto, sono i commercianti della zona che dicono: qua rischiamo che non venga più. Quindi non sarebbero neanche favorevoli, in realtà sono la stessa popolazione austriaca, almeno lì al confine, che sarebbe contraria a blindare il confine. Sì, certo. Neanche raggiungono, diciamo, l'obiettivo semmai di avere qualche voto in più. Vabbè, capiremo poi nelle prossime ore che cosa succederà. Intanto ti ringrazio molto, Mario Bertoldi. Prego, dell'Alto serata. Adige. Ciao, buona buon lavoro. Serata. Ciao. Intanto vedo i vostri messaggi con Cristiano che scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: l'Europa della paura, del rigetto, dell'impreparazione, le chiusure nazionali stanno mettendo a nudo egoismi deleteri. E poi c'è Andrea che scrive: solita figura di M, l'Europa non esiste, ognuno fa i propri interessi, meno noi. Gaetano dice: questo piano d'azione è troppo poco da parte dell'Unione Europea. Mentre Thomas dice: l'azione in Austria è politica interna, infatti questa è l'accusa, e vedremo appunto se succederà qualcosa nelle prossime ore. Nel frattempo succede qualcosa a livello di Corea del Nord, che alza il tiro, evoca venti di guerra, un paese che è blindato su se stesso e che ogni tanto, grazie al suo dittatore Kim Jong-un, piace comunicare con l'esterno a suon di missili. Oggi un altro, ne parliamo ogni tanto, no? Di questi missili che partono dalla Corea del Nord. Secondo l'Accademia della Difesa di Pyongyang, dice: siamo in possesso del missile balistico intercontinentale più potente, in grado di raggiungere qualsiasi parte del mondo. Sarebbe Lawsong 14, questo è il nome di questo missile. Ha volato in 39 minuti per 933 km e pare che sia caduto poi nelle acque giapponesi. Tanto che il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha detto: questo mostra chiaramente come la minaccia di Pyongyang diventi sempre più pericolosa. Anche Donald Trump ha detto: se la Cina non si dà una mossa, agiremo da soli. C'è stata anzi una riunione di emergenza fra i dirigenti militari, diplomatici e della sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump per decidere cosa fare. Allora, su questo coinvolgo l'analista del CESI, Francesca Manenti. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Manenti. Allora, si tratta di, per quanto riguarda Kim Jong-un, di un folle che ogni tanto anche taglia la testa a qualche collaboratore che gli è antipatico, oppure è una forma di celodurismo, diciamo così, conosciamo questa espressione, o c'è proprio una strategia politico-militare, quindi delle ambizioni da superpotenza della Corea del Nord? Ma la voglia del leader nordcoreano di dotarsi di un arsenale balistico e nucleare è un punto fondamentale della strategia del regime di Pyongyang negli ultimi anni, proprio da quando Kim Jong-un ha preso le redini del governo nordcoreano. Perché? Perché dotarsi di una capacità di deterrenza nucleare è considerato da Pyongyang la carta vincente per poter andare a mettersi in sicurezza da quelli che sono tutti gli attori vicini e che guardano con grande preoccupazione all'imprevedibilità della Corea del Nord. Quindi la volontà e i continui esperimenti sia per quanto riguarda il programma di ricerca nucleare, sia appunto lo sviluppo di un arsenale balistico sempre sofisticato, sono assolutamente due parti fondamentali di una chiarissima strategia da parte del governo nordcoreano in questo momento. Quindi è un po' un dire: guardate che se avete delle strane mire su di noi, dice la Corea del Nord, Kim Jong-un, noi siamo pronti, abbiamo questo tipo di armamenti. Tra l'altro è effettivamente un esercito potente quello della Corea del Nord, e tutto il suo programma nucleare e missilistico è effettivamente sviluppato. Vedevo poco fa che la CNN citava appunto l'amministrazione Trump che diceva: sì, molto probabilmente si è trattato di un missile intercontinentale questo di oggi. Sì, si stanno ancora attendendo le conferme per capire se effettivamente il test di oggi sia stato un test di successo di un missile intercontinentale, il che problematizzerebbe ulteriormente un eventuale scenario di conflittuale all'interno della regione, perché appunto con un missile intercontinentale di questo tipo verosimilmente il regime nordcoreano potrebbe raggiungere se non gli Hawaii quantomeno l'Alaska. Questo era quello che i dati tecnici che venivano menzionati oggi, appunto però si cerca ancora una conferma in questa direzione. La volontà di Pyongyang di dotarsi di una deterrenza nucleare è proprio finalizzato a colmare un gap capacitivo che vede in questo momento il sistema di difesa, quindi gli eserciti e le forze armate della Corea del Nord, tecnicamente inferiore rispetto a quelle che sono le capacità militari degli altri stati che eventualmente si contrapporrebbero poi alla Corea del Nord in un eventuale scenario di guerra, se così lo vogliamo chiamare. Andare ad avere una capacità nucleare, quindi semplificando insomma la bomba nucleare, soprattutto una bomba che sia trasportabile, quindi per quello l'importanza del vettore balistico, rappresenterebbe diciamo una sorta di assicurazione al regime di nordcoreano di quantomeno rallentare o rendere sempre più complicati quelle che poi potrebbero essere le conseguenze di un'azione militare da parte appunto degli Stati Uniti, del Giappone o della Corea del Sud. In questo momento la Cina sta prendendo una posizione un po' attendista in quello che è lo scenario, perché per la Cina comunque un'escalation militare all'interno del Pacifico rappresenterebbe inevitabilmente una spina molto dolente nel fianco, perché andrebbe a vedere un rafforzamento della presenza militare degli Stati Uniti in quello che Pechino considera un po' il proprio giardino di casa. Chiaro. Grazie Francesca Manenti. Grazie a voi, buonasera. E adesso ci fermiamo brevemente, prendiamo questa pausa di ricreazione. Guardavo il messaggio di Maurizio che dice: riguardo al caso del bambino inglese, temo che la vicenda straziante della Englaro, di Eluana Englaro, abbiamo sentito proprio nei giorni scorsi il padre Peppino Englaro, non ci abbia insegnato niente. Una vita è degna quando può essere vissuta, e non solo se è speranza senza dignità. Se toccasse a me non avrei dubbi nel non far soffrire per non soffrire inutilmente, la troppa sofferenza spegne anche il ricordo. Questo è il messaggio, l'opinione di Maurizio Valvasone, si firma. Ci sentiamo tra poco. Pagina Facebook di Effetto Notte per voi, per i vostri commenti, alla quale potete aderire tra l'altro senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete quella giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo delle notizie, sono questa un'ora piena di fatti, notizie principali, il riassunto l'avete sentito la giornata all'inizio della trasmissione, e poi ogni tanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono i fatti principali. Passiamo adesso a un altro tema rispetto all'emergenza migranti di cui abbiamo parlato, all'Austria che minaccia di portare i blindati, mezzi corazzati al confine col Brennero, ma ci diceva un corrispondente dal Brennero che proprio lì non c'è nulla, neanche per dire un carro armato di plastica. E poi ci siamo occupati della Corea del Nord che continua a minacciare il mondo con i suoi missili balistici, questo missile probabilmente intercontinentale sparato oggi. Adesso ritorniamo invece su vicende italiane, ma che purtroppo diciamo così sono universali. Ancora un'occhiata ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Nino dice, a proposito dell'emergenza migrazione: l'ipocrisia, l'incapacità dei politicanti italiani non ha limiti, anziché creare le condizioni per gli italiani affinché facciano i figli, permettono l'importazione di esseri umani di altre culture, lontani anni luce da noi, dalle nostre regole di convivenza, senza capire in prospettiva quali pericoli possano rappresentare. Questo rispetto a quello che ha detto, come avete sentito prima, il presidente dell'INPS Boeri, che in realtà abbiamo bisogno di questi migranti per pagare le pensioni agli italiani. Dice questo ascoltatore: poveri noi, il governo sui migranti fa suo il pensiero del Papa, ma questo rappresenta sponsorizza un mondo virtuale, poveri noi. Mentre Erminio da Bergamo scrive: viva Tito Boeri, mosca bianca, vorrei vedere un politico che abbia il coraggio di dire queste cose, gli darei subito il mio voto anche solo per il coraggio. Insomma, posizioni molto distanti. Adesso cambiamo tema, fra pochissimo vi ricordo molto velocemente, vi dicevo, i temi principali. Emergenza migranti. La Commissione europea ha presentato oggi il piano d'azione per aiutare l'Italia e l'Austria, invia mezzi corazzati al Brennero, anche se, vi dicevo, il corrispondente dell'Alto Adige dice qua non c'è nulla di tutto ciò. Banche, via libera di Bruxelles al salvataggio di Monte dei Paschi. Il ministro Padoan commenta: è un risultato importante per il sistema bancario. La sfida della Corea del Nord, che ha lanciato un nuovo missile, probabilmente intercontinentale, che sarebbe atterrato nelle acque giapponesi, e Trump che avverte la Cina: se Pechino non interviene agiremo da soli. La vicenda del piccolo Charlie, la mamma del bimbo inglese chiama l'ospedale Bambin Gesù che voleva accoglierlo, ma l'ospedale londinese non dà nulla osta. Consip, domiciliari a Romeo, in carcere dal marzo scorso, si aspetta il braccialetto elettronico, e a Roma tornano liberi Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca Raggi, e l'imprenditore Sergio Scarpellini, che erano agli arresti domiciliari. Ilaria Alpi, la procura di Roma chiede l'archiviazione del caso perché, spiega, è impossibile risalire al movente e al killer. Lavoro dipendente, per i primi 3 giorni di malattia basterà l'autocertificazione, ne parliamo poi più tardi. Vaccini, parere favorevole dell'Istituto Superiore di Sanità per una riduzione dell'obbligo da 12 a 10, trovate l'elenco sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Poi Donnarumma, il portiere del Milan, che rinuncia alla maturità e parte per le sue vacanze a Ibiza. Ogni tanto dalla cronaca arrivano purtroppo delle notizie che raccontano di un branco di minorenni che violentano una ragazzina. L'ultimo episodio è avvenuto a Bari. Lei è una bambina di appena 12 anni, era impaurita, spesso piangeva, sembra senza apparente motivo. Poi, dopo qualche settimana, ha confessato tutto ai suoi genitori, ha raccontato le violenze subite da un gruppo di minorenni di età compresa tra i 13 e i 17 anni, che la costringevano a pratiche sessuali minacciandola di postare in rete i video in cui era ripresa mentre subiva tutte queste violenze. Era impossibile per lei riuscire a liberarsi e a reagire, questa bambina di 12 anni, finché appunto ha parlato con i genitori, che poi si sono rivolti ai carabinieri. E purtroppo non è un caso isolato. Per fare gli esempi più recenti, il caso in Calabria di qualche mese fa, Melito di Porto Salvo, in Calabria una 13enne violentata ripetutamente dal branco, l'orrore poi rivelato da un tema della ragazzina. Oppure la ragazza di 15 anni stuprata da 11 minorenni in un paese del napoletano Pimonte. Lei era tornata dalla Germania con la sua famiglia perché voleva tornare in Italia, vivere qui dove era nata, e poi invece non dovuto ritornare in Germania per liberarsi da questo peso terribile, perché le avevano promesso anche aiuti, sostegno psicologico da parte di istituzioni. Nulla di tutto ciò. Vorrei parlare di questi casi terribili con Antonella Costantino, che è presidente della SIMPIA, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Buonasera, dottoressa Costantino. Buonasera. Com'è possibile che si ripetano episodi di questo tipo? È perché sono sempre successi, ma ora se ne parla di più, oppure c'è un fenomeno così orrendo, appunto, di minorenni che assalgono bambine ancora più piccole di loro? Ma in realtà non sembrano esserci dati che dicono che sia davvero in aumento, e invece se ne parla certamente molto di più. Certo che un elemento che dalla letteratura sappiamo essere un fattore di rischio maggiore per le ragazzine è che la povertà, lo sviluppo sessuale è certamente anticipato rispetto a alcuni decenni fa, e quindi assistiamo sempre di più a ragazzine dodicenni con un aspetto fisico da ragazze molto più grandi della loro età, e peraltro su questo, come dire, anche la società spinge molto su un aspetto ulteriormente curato da donne adulte, quasi, no? Trucco, i vestiti, le cose, ma sostanzialmente stiamo parlando poi di ragazzine. Però non credo proprio, dottoressa Costantino, che sempre siano così esteticamente così procaci, no, loro no, malgrado. No, no, credo no, che vedere no, una no, bambina no, no, che non si può difendere, che sia, no, possa per no, il branco no, no, diventare una no, preda. No. Certo, no, però sembrerebbe, per esempio, da alcuni studi di letteratura, che l'aspetto di precoce, aspetto da più grande, sia un elemento di rischio, perché in qualche maniera mette più a rischio sia la ragazza, che deve da subito fare i conti con una serie di cose più difficili da gestire di quanto la sua età sia pronta a tollerare, anche in termini di stoppare o di immediatamente chiedere aiuto o di accorgersi che ci sono nell'aria delle cose che potrebbero mettere ma questi minorenni maschi invece che cosa hanno nella testa? No, certo, questo è l'altro aspetto serio, nel senso che invece l'altro aspetto serio è comunque che loro nella testa possono avere tante cose diverse, hanno il gruppo che come dire impatta sulla loro identità, è uno strumento importante di crescita, ma se invece c'è un non rispetto di altri e il gruppo prende una strada come dire violenta e aggressiva, anche perché non è stato i singoli che ne fanno parte non sono stati abbastanza cresciuti in un'educazione attenta al rispetto dell'altro, diventa come dire un circuito che poi prende queste strade drammatiche, perché poi le conseguenze sulle vittime, ma anche sugli abusatori, poi sono veramente, veramente drammatiche, perché sono di un peso tremendo, a maggior ragione perché quasi sempre sono abusatori che la vittima conosceva bene e quindi che a maggior ragione sono come dire un tradimento di una conoscenza, no? Dottoressa Costantino, ma le agenzie educative, quali sono la famiglia e la scuola, in questo caso, al di là della povera vittima delle bambine, ma sui giovani maschi come dovrebbero agire e come dovrebbero educarli? Beh, quello è esattamente uno dei punti chiave, nel senso che un'educazione che fin da subito è mirata al rispetto dell'altro, della sua identità, della sua scelta, del verificare bene che l'altro sia d'accordo con quello che si sta facendo, a maggior ragione in un ambito così delicato come questo, è un elemento fondamentale, perché è quello che poi fa la differenza. Grazie dottoressa Antonella Costantino, grazie, le auguro buona serata. Buona grazie. Serata a lei. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E tra le principali, ve le ricordo, sempre Roberto Giordano con voi, abbiamo parlato dell'emergenza migranti e della presentazione del piano d'azione in aiuto dell'Italia per alleviarla dalla pressione migratoria della Commissione europea. Oggi le banche con via libera di Bruxelles al salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, la sfida della Corea del Nord che ha lanciato ancora un nuovo missile, questa volta sembra un missile intercontinentale, Trump che chiede alla Cina di intervenire altrimenti gli Stati Uniti interverranno da soli, e la vicenda del piccolo Charlie con la mamma del bimbo inglese malato che ha chiamato l'ospedale Bambin Gesù che voleva accoglierlo, ma l'ospedale londinese non dà il nulla osta, adesso si sta attivando anche il Vaticano. E adesso parliamo invece di una questione tutta nostra, di una proposta di legge per la malattia in arrivo, l'autodichiarazione per i primi 3 giorni di assenza dal lavoro. È la proposta presentata dal senatore dell'Italia dei Valori Maurizio Romani, che è appena approdata in Commissione Affari Costituzionali del Senato e ha incassato anche il sostegno della Federazione degli Ordini dei Medici. Ne parliamo con il nostro Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Caro Cristiano, buonasera. Buonasera, buonasera. Ci dici in sintesi in cosa consiste questa proposta? Allora, diciamo subito che questo è un disegno di legge, uno di quei disegni di legge che verso fine legislatura forse non hanno tante possibilità di vedere la luce. È stata presentata sul finire del 2015 e assegnata adesso in Commissione Affari Costituzionali al Senato, non hanno ancora iniziato a trattarlo. Il disegno di legge prevede solo 2 articoli, quindi è molto breve. In uno sostanzialmente si dice che nei casi di assenza per malattia che sono inferiori a 3 giorni, il lavoratore praticamente comunicherà al medico curante il proprio stato di salute sotto la propria totale responsabilità, esclusiva responsabilità, dice il disegno di legge. Quindi il lavoratore si assumerà la responsabilità di ciò che dichiara e il medico farà, consentitemi l'espressione, per così dire, l'inoltro all'INPS di questa autocertificazione, di questa autodichiarazione rilasciata dal privato. Questo è ciò che ci dice un articolo. L'altro articolo invece punta ad attenuare le sanzioni che oggi sono particolarmente severe per i medici che certificano falsamente lo stato di malattia di un lavoratore o che comunque attestano dei dati clinici, dice la norma attuale, quella che è attualmente in vigore, non direttamente constatati né oggettivamente documentati. È chiaro che qui si fa un po' riferimento alla prassi, ne hanno parlato anche gli esponenti delle associazioni dei medici, del fare il certificato di malattia al telefono o comunque senza vedere direttamente il paziente, che è una cosa vietata, questo lo dicono le stesse associazioni, ma che capita a volte perché i medici sono, per così dire, travolti dal lavoro. Quindi diciamo che questo disegno di legge mette insieme un po' i due elementi, l'autocertificazione da un lato e l'attenuazione delle sanzioni per i medici che attestano il falso. Cristiano, poi tu hai capito se sono effettivamente 3 giorni, meno di 3 giorni, si riferisce a 3 allora, giorni questa autocertificazione? Siamo fino a 3, il disegno di legge dice fino a 3. Lo puoi autocertificare in sostanza, questo è quello che ci viene detto dalla norma. Senti, a quelli che già stanno un po' commentando, dicendo ecco, da una parte c'è un giro di vite sui controlli dei medici fiscali, eccetera, eccetera, poi dall'altra invece si dà modo così di, diciamo, di un escamotage, insomma, no? Per magari con una scusa stare a casa 3 giorni. Cosa rispondi? Ma diciamo questo, che chi sostiene questa norma dice che noi dovremmo avere un approccio più anglosassone, dice che comunque non perché si succede può in molti paesi anglosassoni, no? Così questa, che si fa. Questa normativa, esattamente. Non si può, diciamo, ci sono delle sanzioni che sono state introdotte per rafforzare il controllo, questo è un punto chiaro. Sono delle sanzioni che però si dice in realtà non si traducono nella pratica, perché i medici non riescono a controllare, soprattutto. Immaginiamo l'ipotesi, l'esempio che è stato fatto anche dagli stessi promotori della legge, il classico forte mal di testa, non ha dei sintomi clinici verificabili, quindi il medico che ti veda o che non ti veda dice beh, stai a casa. Cristiano, siccome siamo in chiusura, dimmi una cosa, ha possibilità di passare allora, come dicevi, o no questa legge? Abbiamo proprio 20 secondi. Se devo dare un parere personale, la vedo abbastanza difficile, perché poi qui noi oscilliamo da una parte all'altra. Adesso sembriamo tutti disponibili a tutelare il lavoratore autoresponsabile, il medico poverino che rischia le sanzioni, poi al primo caso di fannulloni il pendolo si sposta dall'altra parte e diciamo no, bisogna controllarli e bisogna sanzionarli. Staremo in attesa di vedere se vedrà la luce questa proposta di legge e diventerà legge. Grazie Cristiano Dell'Oste, buon lavoro. Grazie, grazie. Sono 24 ore. Ciao. Ci dobbiamo lasciare, se ci risentiamo brevemente alle 22.